scale che c'erano, una, due e quasi tre, da col divano che era molto pesante. Quei divani, caspita, i divani o se non sono pesanti i materassi lo stesso, perché poi lo sai quello, il fatto cos'è del materasso, dei divani, che non hai appiglio, capito? Secondo che divano è, non è appiglio ed è un peso morto, perché non ha appiglio, tutto quanto si invade, si ruscigheggia, diventa pesante e fastidioso da trasportare per quello. Sì, sì. Vabbè, comunque, dai, ce l'abbiamo fatta. Dopo lunghe e penose malattie, il problema, ho detto, mi sono chiesto, ma ci sta tutta questa roba, perché tra sedie c'è un bel di roba. A proposito, non so se ti interessa, per la tua veranda, un divanetto due pulsi, bellino, e la struttura è buona, capi? Anche il coso è buono, però il rivestimento, se vuoi te lo puoi anche cambiare. Sì, io ti ringrazio, ma non emettiamo, perché diventerebbe un letto per i cani, perché non è che posso, perché si coricherebbero loro. Poi se fa lo sbaglio di entrare il topo è un casino, quindi ce l'ho avuto un periodo, poi una volta è entrato un topo qua dentro, qua in campagna, lo sai com'è, diventerebbe un nido di tutti, abusi con cani e gani, no, casino. Adesso com'è, prendiamo di quelli, io ho quel salottino in vimini comunque, in bambù, giusto, bacco prendizio, e ci abbiamo quello, Manuela mette i cuscini, dai, conserva i cuscini, d'estate li mette all'esigenza, li toglie. Per l'esterno quelli sono i migliori, ma tutte le immagini, se io metto un divano in veranda, dopo 3 secondi ci sono i cani coricati sopra. In vimini, hai ragione, hai avuto la mia stessa idea, perché anch'io ho la possibilità di fare un po' di pulizia, mettere il divano e tu, quella lì sarà la cuccia del cane, lascia lì, non emettere, perché poi tra cane bagnato e divano bagnato la fragranza è bella, già lo sai. No, vabbè, magari qualche topolino sì, ci può stare. A proposito di topolino, sono andato a prendere le uova dalle galline, porca miseria, era un coniglio. Si è nutrito? Porca miseria, quanto è grande che. Ma già gli ho messo un po' di medicina a mangiare. Ho detto mangia che devi essere mangiato, no, però mangia che devi morire. Quelli vanno affrontati da uomo a uomo, quelli vanno affrontati da uomo a uomo, sì. Bisogna beccarli, io li odio, ma non perché mi fa schifo la coda. Guarda, se a me ai topi, allora se i topi non avrebbero avuto la coda, sarebbero stati anche i miei animali preferiti, avrebbero avuto un posto nelle mie preferenze degli animali. Però loro la coda hanno sbagliato di brutto nei miei confronti. Sono orribili, li detesto. Io ho proprio la fobia dei tupi. È una cosa proprio che non mi va giù. I ragni, tutte quelle cose lì a me non me ne frega niente. Le lucertole, cose, non me ne putti nulla. Ma il topo tu mi vedi appeso agli alberi scappando dai tupi. Ma non scappando, mi fa schifo. Sì, tu sei come mio cognato, dice dammi un leone e te lo affronto, non mi dare un topo a casa perché mi cago addosso. No, io tupi, se a volte magari in quei garage dove c'ho, diciamo, attrezzatura da campagna, sì, sono chiusi, però magari potrebbe entrare, una volta è entrata mia moglie a toglierlo, perché io ho detto qua o entri in garage a togliere quel topo, altrimenti sto chiamando l'escavatore a buttarne in terra il garage. Quindi dizi di due, se devi va. Aspetta che, infatti è entrata lì, l'ha mandato via lì con i cani. Se l'ha preso il cane e l'ha tutto martoriato. Perché io stavo per buttarne in terra il garage, a me dovendo mettere un topo dentro a casa io prendo e dormo in tenda. Ma vai a vedere la medicina, che il bello è che di questa medicina che se gliela dai spesso magari si abituano, se invece gliela dai che so, una volta alla settimana però cambiando, allora le fa effetto e poi uno si morsica con l'altro e vanno a distruggersi. Ma tu ci credi che una volta avevo il vizio di mettere il Gran Turco perché avevo 6 galline. Il Gran Turco in mezzo alla terra, dai, facevo una montagnetta lì di Gran Turco e loro andavano, mangiavano, facevano, che belle contente, mangiavano anche un po' di erba, un po' di sabbia, un po' di terra, quello che. Sino a che hanno fatto un buco, ok? Un buco nella terra. Hanno fatto questo buco e mi hanno fatto il piatto e mettevo il Gran Turco proprio in questo buco qua. Loro si avvicinavano. Un giorno è capitato che gli ho messo il Gran Turco e te ci vedi come mangiano queste galline, ma così, sai, spensierato, passeggiando in campagna, senza sapere neanche di quello che stavo facendo. Cazzo, Gavi, e mi guardo questo buco ed era, tu ce l'hai presente, uno a fianco all'altro, un topo a fianco all'altro, in giro a questo buco. Io penso che forse una ventina ci sono stati. Io ho detto, aspetta un attimino, no, non ci credo, vado, prendo il fucile, perché tutti erano una fucilata, qualcuno lo ammazzerò, no, sono lì, cazzo, vabbè, prendo, mi avvicino col fucile, piano piano, adesso non ho sentito il rumore, iniziano a fuggire, lo sai cosa sembravano, formiche, fuggire, porca miseria, e quindi non ho sparato, ho detto, vabbè, mi arrangerò diversamente, l'indomani ho comprato 3-4 bustine, una differente dall'altro, ma una differente dall'altra, e ho seminato il territorio. Guarda, credimi che per un paio di mesi non ne ho visto uno. Sì, ci credo. Allora, noi dove abbiamo il capannone, fino all'estate scorsa c'erano i cassonetti di lì dentro, sotto di lì, lo sai dove sto parlando. E la mattina quando rientravamo d'estate, no? Andavamo di lì vicino ai cassonetti, dove c'erano i cassonetti e tutta diciamo la mondezza del ristorante, queste cose qua, no? Arrivavamo di botto col furgone, con la macchina e suonavamo alle 4 del mattino. Tu vedevo se ne uscivano di toppi. Sì, una bugia te la dico, prendila come una bugia, 50-60 toppi, tutti uscendo da dentro i cassonetti, ma non toppi. Avevano più o meno la grossezza di un tubo d'acqua da 10 cm, grossi. Così e lunghi una ventina, ma erano grandi, enormi, c'ho anche i video, si vedevano questi topi uscendo dallo schifo, e infatti avevo l'incubo, ho detto, se entra uno di questi topi in capannone ci fa un danno da paura. È arrivato il giorno che è riuscito a entrare il topo in capannone, perché quegli sbadati hanno lasciato la serranda un po' aperta, sono messo a fare roba fuori ed è entrato il topo. Abbiamo messo la trappola, l'abbiamo preso, ci credi che questo topo prendeva e gli è rimasta la coda incastrata nella porticina della trappola e si sbatteva, ti affrontava maledetto. Sì. Ma era già qua. Luisa, guarda se sono aspetta, se non ci sono le caldaie. In 446.100, tu senti questi qua per caso? Lisa, boh, vabbè. La rispondo io? No, no, è roba vicina a casa tua? No, non ho sentito nessuno. Digli che la caldaia è un casino, a spegnerla immediatamente. Aspetta. No, no, no, no, la caldaia la devi spegnere immediatamente, brucia troppo. Se avessi mi rispondono. No, ma secondo me non sono a 44600, sono lì vicino, però io prendo qualche cosa perché ho provato a parlare più volte e non mi hanno risposto. Sicuramente hanno qualche tono, qualche cosa che non va bene con quello che mando io, dai. Sì, sì, sì, sì. Boh. A 44600 allora è Baufeng, perché il TRM normale non te la dà questa frequenza. No, però per dire, possono essere anche, che ne so, 0,080, e tu a 100 li senti lo stesso, capito? Sì, sì, sì, sì. Boh, io qua, da quando l'ho abbassata, diciamo, io l'ho messa a esigenza per sentire a te, a Franco, e boh, non sento tantissimo, non sento tantissimo, addirittura mi è calata anche molto la ricezione per la banda marina, ma non mi interessa, mi serve solo per canale di chiamata e boh. Dovendola sollevare di altri 3-4 metri, allora inizio a ricevere anche io qualcosa a Sassari, qualcosa ascolto. Però caspita, la caldaia, Lisa deve spegnere. Allora, dammi un secondo, capi, che qua stanno maneggiando reti e quant'altro, sono a tirare la testa, aspetta. Vai, vai. Sono stasera spostando mobili e quant'altro, guarda. Stanco, capi, stanco, io l'ho fatta la vita da... Per 6-8 mesi l'ho fatta la vita da trasportatore, smontatore di mobili e balevare. Ma non è un lavoro per me, lo so già. No, ma poi dopo che ti fai una settimana di cantiere, di officina, come te l'hai fatta, facendo quei pezzi, arrivi lo sabato, cioè è burro, gana di biglià e carramobili. Ui, lascia perdere. Sì, qua. Poi sì, il trasporto dei mobili e il montaggio è una baranoia, ma veramente, veramente. Finché uno fa solo il trasporto va bene, o il montatore che prendi di piazza. Ma carrà, quanto è feo. Aspetta che ti mando due foto, poi te le guardi con calma. Ti mando due foto che ho fatto... la benda in costruzione, no? Giusto per farti capire cosa stavamo facendo. Capì? Credimi che è una cosa fatta artigianalmente, ma noi ci dà bene, no? Di più. Di più, per come l'abbiamo fatta noi. Lascia perdere. Lascia vedere, va. Ti mando due foto e poi ti rendi conto della lavorazione che abbiamo fatto. Adesso mando anche la foto di com'era il dilli che sì, tutta la cosa che ho caricato te l'ho mandata. Vediamo un po'. Ma ancora non è arrivata. Arriverà. Eccola qua, arrivata. Allora, questa della benna me l'hai mandata l'altro giorno, del ferro. Allora. Sì. Caspita, sta benna è uscita bella. Cioè, in pratica gli avete rifatto il contatto a terra, gli avete rifatto tutta la roba, diciamo, la lamiera del cassone e la benna, il telaio e la lamiera, così è. Allora, tu immaginati, una, quella bena lì era, guardati quella dove praticamente è finita, quella frontale, quella lì è una bena vecchia, che l'abbiamo tagliato il piatto, praticamente dove, dove va a raccogliere la terra, e gli ho sagomato tutti quei ferri, 16 ferri, per farla così, per farla grigliata si chiama, ma non è finita ancora, questa è la prima parte, perché poi ci vanno i... adesso va saldata bene, quando è finita del tutto te ne accorgerai che bella che esce, ma esce anche una bella, bella bene funzionale, a parte che ci vogliono i ferri che mantengono tutti questi ferri in verticale, ce ne vogliono tre tondini all'interno e poi nel taglio della benna ci andrà un altro di questi ferri qua, però piatto, in maniera tale che vada ad saldare tutti quelli che sono fatti, diciamo, là. È un bel lavoro. Poi se tu noti nella parte posteriore sono accavallati alla benna, certamente non sono usciti tutti quanti precisi perché, porca miseria, cioè ci vuole una piega tubi, una piega, come si chiama, una pressa, noi li stiamo facendo a mano con il cannello, non è che... No, ma è uscita bene, sì. È uscito un bel lavoro. Ah, ma quella quindi non va chiusa, deve rimanere così, a tipo rastrello. Allora, quella deve rimanere così perché mi serve per raccogliere la terra e le pietre, no? Poi cosa succede? Che mi giro, settaccio la terra, quindi la terra rimane da una parte e le pietre mi rimangono dentro la benna, e le pietre però, allora la terra mi serve per una cosa e la pietra mi serve per un'altra, quindi quando farò questa lavorazione qua, faccio setacciando la terra per, che ne so, giardino e quant'altro, mentre invece le pietre mi servono per fare la massicciata. Sì, hai visto, bella roba artigianale, e andava, già è... Se è funzionale, è un bel lavoro, porca miseria, sto guardando una cosa su internet. Nuova Sardegna, Sassari, scontro nella rotatoria, ferite due donne e un bambino di un anno. Beh, uiuia. Hai visto, il nuovo coso che hanno fatto in Toscana, della Mondial Pool, della Viosae? No, cosa è successo? Ti mando il link. Un assalto a un portavalori, dicevano preso dai 3-4 milioni di euro. E chi ha fatto, e chi l'ha fatto aveva degli accenti, aio! Ah, sì, l'ho visto, mi ha mandato un'altra, sì, infatti, aio, sì, già. anni va tu, ma che sia una cosa continua, deve essere continua la cosa, sino a rompere le palle a quelli che stanno al potere. Esatto, ma dove c'è Nicolas, il divano che hai portato? E allora, non è che sei già straricato, spiega le gambe alte, però lo fa sia a destra che a sinistra, quello centrale no, Caspita, questo è un divano importante, sì. Sei nuovo, ti sto dicendo che è tutta roba nuova, ma proprio nuova. Allora, tu immaginati una casa arredata, questi sono russi, vengono forse quando ci vengono una volta alla settimana in estate, e siccome ce l'ha comprata mia cognata, ha voluto sbarazzare quanto c'è, quanto di più. Ma ti faccio vedere la cosa che hanno portato. Ui, guarda il camioncino. No, l'ho visto, caspita, ma quel divano è importante, quel divano è bello, quello è un divano di valore. Niente, la Spagna anche dà. È un divano di valore quello, e poi ho visto anche il giroletto, cioè il capezzale del letto, quello è bello. Sì, over. Cazzo, 9:20, eh? Sì. E vabbè, però abbasso perché sennò non sento bene. Sì, sì, sì, no, ma tutto, tutto, sia porta TV, allora vedi che tu c'è, davanti ho messo il materasso, memory, nuovo nuovo mai usato, con le doghe nuove nuove mai usate, con tutta la struttura nuova nuova mai usato, un armadio a quattro ante nuovo nuovo mai utilizzato, tutto nuovo. Adesso ci sarà un po' di lavoro per me, però va a far Napoli, pian piano la sistemiamo. Non so già ti dico, quando è così però ne vale la pena, caspita, di lì ci sono diciamo i materiali sono soldini, non è che hai preso roba, caspita, quel divano se va a comprarlo non ti basta nei 2000 euro. No, beh, abbassa. Però nel tutto l'insieme, forse, nel tutto l'insieme, tra materasso e, sì, 2-3 mila euro, non di più, no, 3 mila no, però 2 mila sì. Ma quel divano, vai e toccagli il tasto a quel divano, beh, quelli elettrici che sollevano le gambe. No, non è elettrico, questo è a molla, tu hai una levetta laterale e lui ammolla tipo degli ammortizzatori, ti aumenta la pressione e va ad alzarti le gambe, non è a motore. E allora quel divano viene almeno dalle 1500 alle 1800 euro nuovo, fidati che sì, noi l'abbiamo comprato, sarà un anno e mezzo fa il divano, ed è questo tre posti che ho qua nella sala. E questo è uno scamosciato, un divano buono, perché è un divano buono. Aspetta, era venuto 800 euro ed era un divano di quelli meno costosi, un divano buono ma meno costosi. I divani mi sono chiamati in capo 7000, 8000 euro, e per cosa? Ed è quello lì, fidati che quello lì va dai 1500 ai 2000 euro quel divano nuovo. Hai visto che quella è pelle scamosciata? No, questa è pelle martellata, si chiama. Martellata? Sì, si chiama così. Aspetti, faccio una foto da più vicino, così capisci com'è. Cerca la marca di quel divano. Tanto ci dovrebbe essere anche la sigla, il nome, capito? Magari, cosa ne so, poltrone, soffa, serie, candida. E ti dice il prezzo. Boh, vabbè, cioè la marca non c'è in qua, nel divano non penso che ci sia. No, questa si chiama pelle martellata, lo so perché ci ho lavorato alla Simobili, quindi la conosco. No, è bello, per carità, è bello. Anzi, avevo paura, porca miseria, avevo paura nel trasporto, ho detto, se si mette a piovere lo rovina, perché poi... Allora, meno male che... Allora, l'anno scorso ho trovato a Capodorso, quando ho fatto le ferie, sono andato in camper e ho trovato una veranda di un camper che il giorno prima praticamente, cosa è successo? È successa una bufera, il giorno prima gliela stracciata e lui il tipo cosa ha fatto? Ha preso la mollata, ha avuto la brillante idea di mollarla lì nella piazzuola e poi sono capitato io, porca miseria, e ce l'ho vista lì e ce l'ho presa. Quindi ce l'hai anche portata via. Beh, aggiustate ce l'hai. Ce l'ho presa e l'ho usata come per riparo, adesso mi è servita, vedi? ho messo il telo sotto il cassone, il divano sopra che va a volgerlo, quindi ho detto se piove si lambia le luci, perché bagna sì, ma bagna i piedi, non mi bagna il tessuto, capito? Però insomma è stata una buona fortuna anche nel trasporto, perché avevo di avevo tutto di più, anche mobili, mobili comodini, il letto a cassonetto, un armadio a quattro ante, poi cosa avevo, sei sedie o quattro, insomma il comfort, quattro sedie, poi avevo, cosa c'avevo, un mobile per la TV e poi altri mobili di coso di salone qua. È andata non bene, no, di più. Alla grande. L'importante è che hai riparato quel divano e il materasso dall'acqua, quella roba lì, quella roba che si può impregnare, è importante. Però sì, la conoscevo questa, non sapevo che scava martellata, però è bella questa, questo tipo di quel tipo di pelle. E ti costano. Poi ho visto che c'è anche un mobile per il frigo, se non sbaglio, quello lì, o è il aspetta, scusa un attimo, è una credenza questa che c'è sotto le sedie, così è. Ah no, allora c'è un tavolo che si allunga, vedi che sono i piedi, quattro piedi, e in mezzo al tavolo c'è una credenza, giusta c'è stata. A fianco c'è il porta TV, poi c'è un barattolo di tinta nuovo, poi c'è, qua ci manca anche i cuscini e una TV, tutto il lato. Il lato, per dire, a destro è, c'è, dove c'è quella, come si chiama, quella coperta, anzi quella tovaglia scritta, lì è tutto l'armadio a quattro ante. Sì. Sì, è va tu, tanto quella roba che si usa sempre, è fatto bene. Speriamo un altro video un attimino. Beia. Yes. Fa. Scusate, stiamo facendo lavoro al museo del Retornare a Sentino. E infatti mi ha mandato il video della struttura in ferro che ha fatto il carpentiere. Adesso lunedì la montiamo. Ci abbiamo studiato questa struttura al libro. In pratica tu immaginati un rettangolo di 3,40 m alto per 3,40 per 6, 3,40 per 6 metri. E questo è una cornice dove ci va uno schermo gigante, un LED, si chiama un LED, ci va uno schermo gigante. E siccome va appunto attaccata a muro, perché è una sala, nel museo c'è questa sala conferenze, e per qualsiasi manutenzione o coso, una volta che è attaccato anche per installazione, non puoi più agire. Quindi ci abbiamo studiato questa struttura in ferro con dello scatolato 8x8, con delle cerniere in ferro traselate a muro. È una ruota, è per aprire, per non proprio far pesare tutta la struttura del LED. E abbiamo fatto installare una ruota dentro lo scatolato, nel vertice del libro, in modo che rimane sempre appoggiata a terra, e per qualsiasi intervento cosa fai? Sganci dal muro e apri proprio lo schermo al libro. Mi ha mandato un video di bella ruota, sembra bella, una bella, abbiamo preso una bella ruota, diciamo in gomma, però tutta con i cuscinetti in acciaio, lavoro fatto bene. Sì, ascolto, sto per cancellare delle foto dove è andato un amico in Kenya, le vuoi vedere? Vai. Attenzione, Tito Muscolo, siamo ascolti qui. È certo che ti ascolto, allora, buongiorno, anzi, buonasera. Buonasera, sono vicino al quadrato. Ciao Cri, già ti ascolto, ma penso che se sei vicino al quadrato ti ascolta anche Gavino. Sono sotto una via vicino a... Negativo. spiegato con la mezza di morte. Ah, Catta, non ascolti Gavin. Qua è 9:20, eh. Mi sembra strano. Ah, io attacca, Cri. Io sei messo ai palazzi anche. Ma sei già attaccato? Adesso sono attaccato, perché? Ah, adesso Gavin, lo ascolti. No, non lo ascolto, sì, non lo ascolto. Ma lui a me mi ascolta? Aspetta, avete parlato in due, Cristian. Adesso sono attaccato, eh. Non ti ascolta Calvino, se no ti avrebbe risposto. Ma sì, non ti ho aumentato. Sì, però non lo so. Cioè io 9:40 nella macchina mia lo raggiungo senza lineare. Vabbè, io sono messo a due vie della a una via, mezzo palazzi, parcheggiato. Mezzo palazzi, però voglio dire, Sassari con la PLC 2001, lascia belli. Lo so, io sono anche la del Kaiser, un altro metro e mezzo. Tu pensa che mi ascoltavano quasi 9:30, no, quasi 9:30, dalla corte, ti puoi immaginare, col 747 però attaccato. Scusa un attimino, Cristian, mi ascolti a me? Oppure chiedili se mi ascolta a me, ti. Aspetta un attimino. Ma poi senti meglio, dai, che sono già a Pasquale, tanto. Aspetta un attimino. Sì, scusami Gavi, ma avevo l'altra banda che mi ha chiamato. Sì, già è lui. Guarda, sono pronti nuovo, sto scendendo in pizzeria. Sì, ti sento, Cri, ti sento. Sì, Gavi, già è lui. Caspita, tu che vuoi posti, minori da questa vicinetta. Il tuo viso, chi so. Quale? Basta, c'è anche a dopo. Sì, Cristian, va bene. Sì, quello con la maglietta bianca è lui. Ma ero adesso 5 secondi fa in 225 con lui, che mi ha chiamato. Sì, no, quella, dai, questi bambini, queste cose, qua mi fanno la tenerezza. Loro vanno, fanno un po' di beneficenza, dai. una cosa bella, quindi tu pensa, vedi quel muro che c'è lì, in cantoni bianchi, gli hanno fatto già 3 case, tu pensa che quel villaggio lì è diventato il più ricco in confronto ad altre persone, perché se tu nutti e guardi i video, stanno dormendo in quelle case fatte a fango in 10-15 persone. E dov'è questo tipo? In Kenya. Sì. Ui, e noi ci lamentiamo, caspita. E chi sa niente cosa devi dire allora, boh. Infatti se tu leggi c'è la maglietta con la sua scritta, non so se l'hai notato nel braccio sinistro, con la scritta rossa. l'ho letta, tolo. Aspetta che Enrico mi deve dire una cosa. Vabbè, comunque hai visto, è sponsorizzato, al numero di targa. Sì. Però ti c'è da ammirarli, c'è da ammirarli, perché quella è una cosa molto importante, quella è una cosa molto molto molto importante. Sì, sta arrivando un video, però è lento. Non so perché non arriva, non sono arrivati tutti quanti i video, vero? No, mi è arrivato solo le foto, mi sono arrivate, solo le foto. E poi sta caricando ancora altra roba. Infatti. Non sono arrivate tutte. Vabbè, comunque già ti arriveranno. È giusto, perché le voglio cancellare, se no mi riempie. Cazzo, mi ha mandato un sacco di video. Infatti mi ha detto, gli Elenchini già lo sai. Cazzo, come fai a non saperlo? Vabbè. Sì, Togo è importante fare queste cose qua. Io avendo la possibilità avrei fatto anch'io. Però purtroppo un bacio ne manca a me. Noi lascia perdere, capito? Non sai quante cose, quante volte ho voluto pensare a queste cose qua, ma non effettivamente, quando non bastano le tue esigenze giornaliere, come fai a pensare anche agli altri? Loro bene o male hanno delle capacità e delle opportunità molto superiori a noi, tu sai benissimo il perché. Quindi quando si fanno un viaggio di piacere, hanno proprio il piacere di farlo per fare queste cose qua, e va bene, è una cosa bella. Ti ripeto, hanno fatto già 3 case di quelle importanti, case grandi, in maniera tale che la gente non soffra di freddo, di caldo, di non stanno al fango, però voglio dire, io ho conosciuto delle persone della Mauritania, si chiama, no? dove loro residevano. Cavolo, io ti posso dire la verità, tu gli puoi dare tutto il rispetto loro del mondo a queste persone, quando sono abituate così non ne raffutti nulla. Cioè, io ho visto una di queste persone qua che il dottore gli ha dato una casa, questo faceva il pastore, però un bravo ragazzo, tu quello che vuoi, questo faceva il pastore, ha detto, scusa un attimino, Khan, si chiama, Saidu Khan, si chiama questo qua. Ha detto, Khan, il dottore ti ha dato un'opportunità da non sottovalutare, tu stai vivendo sotto un bel tetto, perché giustamente non ti piove sopra, giusto? No, bella casa, si faceva capire. Sì, ma tu non puoi, cioè io sono entrato in casa tua, fa schifo, tu non puoi cucinarti il couscous e lasciare la mondezza nella cucina, tu te la devi pulire. Dove dormi? Ma io l'ho fatto a pessimi. Dove dormi? Hai il cuscino nero, più nero di te, e la fodera è bianca, era bianca principalmente, quindi date una regolata. Guarda, vengo io, ti do una mano, tingiamo la casa, facciamo quello che è, però tu mi devi promettere di tenere bene. Non era futtinuta, capito? È una persona fatta, guarda, una splendida persona, credimi, io persone così non ne ho mai conosciute, perché erano proprio buone di buon cuore, lavoratori, tu si vuoi, però è così, no, sono abituati a fare gli animali. No, è proprio il loro stile di vita, Ma tu adesso prendi gli zingari, a loro li puoi dare tutto quello che vuoi, case, loro hanno la fissa dei soldi, si vendono tutto, si vendono la casa e vanno a dormire nelle roulotte, nelle tende. È proprio la loro indole, è come il cane, anzi forse il cane si adegua di più di certi cristiani. È vero, quella gente devi solo metterla in condizione di vivere bene nel senso dargli il minimo indispensabile, perché loro basta che hanno da mangiare quello che vogliono loro, da bere acqua, perché poi non bevono alcolici, non bevono niente, bere acqua è un rifugio, però devono stare nel loro habitat, oppure anche se sono nella civiltà, però cercano in tutti i modi di riprodurre il loro habitat naturale, anche se tu gli dai un'abitazione come tutto di lusso, loro devono ridurla nel loro habitat, nella foresta. Crina, tu eri? Sono io, dai, quello che ho preso dopo, dai, sentiti adesso, dai. Non lo so se ti sente, lo senti a Cristian ora? Ciao Cristian, sì, ora ti copio, buonasera. Guarda, sono in via Petronica, passeggiato, ho mangiato, adesso la via, dai, ci vediamo dopo, dai. Va bene, ciao Cristian, ciao. Sì, È vero, è che purtroppo, io dico una cosa, cioè, ma almeno dove dormi, e porca miseria, hai munto le pecore, e vai a fare una doccia, non puoi dormire con l'odore della pecora. Mi fumo una sigaretta, entro subito. Sì, ti stavo parlando sopra, scusa Gavi, stavo dicendo, poi vai a fumarti la sigaretta, stavo dicendo che questo fa il pastore, voglio dire, hai munto le pecore, ti fai una doccia e poi vai a coricarti, è così che funziona, perlomeno, vabbè, buona fumata, dai, così do da mangiare i cani, nel frattempo ci sentiamo dopo. Senti, loro, ti ripeto, è proprio il loro stile di vita, non hanno cura della persona, perché sono abituati a vivere, diciamo, in una maniera, allo stato braro, che non conoscono, loro conoscono magari il giorno della festa che è della loro religione, però del resto la vita per loro è sempre la solita, non danno conto alle cose, poi sono anche bravissime persone, lavoratori come hai detto tu, però alla fine bisogna rieducarli, bisogna inserirli nel mondo, nella civiltà, prova a dargli qualche medicina a vedere se la prende. C'era uno che conoscevo, aveva la pressione alta, un signore di colore aveva la pressione alta, lo sai cosa mangiava? Spicchi d'aglio, va via un fiago, come si può dire, c'aveva una puzza di soffritto, non veniva mai a dirlo, e lui curava la pressione con l'aglio, dice l'aglio crudo, a me la pressione mi scende, hai compreso? Non ti si può avvicinare a un metro, mi riprendo subito. Sì, è vero, ma è così, però purtroppo è così, veramente. Noia, sapendi. Va, certe scene, ne parliamo dopo, rientro subito. Dai, dobbiamo mangiare i cani e sentiamo dopo, ciao dopo.